Siamo alla 22esima edizione della Giornata della Memoria, un giorno importante perché è un giorno che è riuscito a generare un'istituzione che vuole ricordare che la verità deve predominare sugli eventi che ci circondano, che la storia, che la narrazione della storia di quello che è accaduto 80 anni fa nel nostro paese non solo non deve riaccadere, ma non deve riaccadere nelle forme di intolleranza e di violenza a cui oggi purtroppo assistiamo. Giorno della Memoria che racchiude un programma estremamente completo, interessante, che non è solo nel giorno, ma che si realizza in un lavoro costante giorno dopo giorno nel corso dell'anno, sancisce questo principio, un principio appunto di verità. Tra i vari eventi di questo programma ci piace segnalare che la musica quest'anno entrerà nelle case di tutti, perché è col Teatro Comunale che realizzeremo per la prima volta un evento che appunto è il concerto della memoria, domenica 30 gennaio alle 20:30 al Teatro Manzoni, e sarà un evento aperto a tutta la città, gratuito, in cui immaginiamo e auspichiamo che ci sia un'ampia partecipazione, perché la musica possa diventare uno strumento di comunicazione forte per tutti quanti, perché ci possa ricordare appunto che oggi fare memoria significa ricercare e tenere ferma la barra sulla verità. Che effetto vi fa questa propaganda Novax che paragona, diciamo, l'obbligo vaccinale, insomma, spesso viene tirato in ballo la Shoah, il nazismo? La storia, per quanto ci riguarda, non si strumentalizza. La storia è appunto fatta di elementi che devono definire necessariamente con grande precisione verità e documentazione. Strumentalizzare la storia per definire condizioni che in qualche modo manifestano un'insofferenza sociale non è propriamente adeguato al contesto. Certamente non lo è rispetto ai temi che mi ha sollevato. La questione della pandemia e della condizione sociale che oggi le nostre città e le cittadinanze vivono quotidianamente non possono e non si possono permettere di accogliere anche questo tipo di provocazione.